西、马格兹、格拉蒂兹等歌唱家的精彩演唱，由哈伯格指挥布达佩斯罗西尼管弦乐团、匈牙利广播合唱团演出。 La fortunatissima per me.

viene la tregua, già viene l'ora, già viene l'ora. Nunzio di Vittorio, già viene l'argento, già viene l'argento. Ecco, ecco, di casa scende, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, Numero 15, facciata bianca, 5 parrucche, con la moderna, che per l'insegna, una lanterna, 5 bocche, le ladrine, la bella, una di giù, senza fare di colore. Thank you. Si introduce destramento e le teste di cervelli e le teste di cervelli fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco poco con la già di lotto in cocco, sempre il cuore un lotto in testa, c'è ne sento troppo presto, ma ti schiamo troppo l'anno, che ti fanno l'orgerato, poi la pinta bocca scoppia, si propaga, si raddoppia, e produce l'esplosione, come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto temporale, un tremoto temporale, molto generale che fa l'aria ritumbare, un tremoto temporale, un tremoto temporale, tutto molto generale che fa l'aria ritumbare. E

costei di malizia potendo. Sono inutili le smorfie. Fermala, non mi toccate. Fermala, non mi toccate. No, figlia mia, non lo sperate, che io mi lasci di noia. No, no, figlia mia, non lo sperate, che io mi lasci di Paolo con bell'aria sotto queste scuse, signorina, vi consiglio mia carina, tu con me in postural, oh, con me in postural, oh, con me in postural. Via carina, confessate, son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate, non parlate, vi vi ostinate. So bene che il che ho da far, so bene quel che ho da far. Signorina, un'altra volta che lo parla da fuori. Signorina, un'altra volta che lo parla da fuori. La consegna se vittoria su quella cosa aprirà. Signorina, un'altra volta che lo parla da fuori. Signorina, un'altra volta che lo parla da fuori. La consegna se vittoria su quella cosa aprirà. E non sei l'ora di morta, sta pure la carta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure la carta morta. Questo è quella porta, questo è quella porta. Nemellare, nemellare, nemellare, potrà. Però si rendo gentile, sconsolata, disperata. E non servono le sforzi, faccia quella gatta morta. Questa è quella porta, nemellare, potrà. E non si rendo gentile, e non si rendo gentile. Sotto la disperata, disperata, disperata, disperata. Dico, voglio, dico, voglio, dico, voglio. Signorina, un'altra volta quando vanno fuori. Signorina, un'altra volta quando vanno fuori. La consegna si vittoria, insomma, lo saprà. Signorina, un'altra volta quando vanno fuori. Signorina, un'altra volta quando vanno fuori. La consegna si vittoria, insomma, lo saprà. E non sembra di morto, faccia pure la casa morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure la casa morta. Questo è quella porta, questo è quella porta. Nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare. Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non sembra di smorfia, faccia pure la casa morta. Questo è quella porta. Nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, Condottor della mia sorte, non si lascia fino piano, no. Condottor della mia sorte, non si lascia fino piano. E non si inventa sentita, consolata, disperata, di sua candela ferrata, di mia voglia star con la, di mia voglia star con la, di mia voglia star con la, di mia voglia star con la. Oh, respira. sfida. Dove sia? Guardando un barbatopolo, guardando un barbatopolo, sembra una scalatina, sembra una scalatua, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, ridere sto per crepare respirare ridere sto per crepare Thank you. le grazie, non si incomodi. Gioia e pace per mille anni. Obbligato, in verità. Pace e gioia sia con voi. Mille grazie, non si incomodi. Gioia e pace per mille anni. Obbligato, in verità. Questo volto non è ignoto. Ha su un colpo andato vuoto. Non ravviso, non ricordo. Ha capar questo valor. Ma quel volto. Un novel travestimento. Non capisco chi sarà. Più propizio a me sarà. Sì, propizio a me sarà. Gioia e pace, pace e gioia. Ho capito, cucciol che noia. Gioia e pace venni cuore. Basta, per pietà. Gioia. Pace. Ho capito. Cucciol che noia. Venni cuore. Pace, gioia. Basta. Basta, per pietà, pace. Oh, perfido destino. Il vecchio non mi conosce. Ma che barbara giornata. La mia sorte fortunata. Ma che perfido destino. Ma che perfido destino. Gioia, canaglia, pace, ma basta, gioia, basta, per pietà, madre bella, povero destino, madre bella, madonna, Basta! 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。请欣赏普契尼的歌剧《托斯卡》中的选段，由米瑞西欧、兰姆蒂博、卡洛里等歌唱家的演唱，斯洛华克爱乐合唱团演唱，捷克斯洛华克广播交响乐团演奏，拉巴里指挥。

ferma, lasciami. Tu fino stasera stai fermo al lavoro e mi prometti, sia caso fortuna, sia treccio mio da Bruno, a pregar non verrà donna nessuno. Lo giuro, amore. Thank you. O scambon falco, certo a quest'ora i miei segugi le due brede azzannano. Doman sul palco vedrà l'aurora, angelo che il bel Mario all'accio penderà. Toscaia palazzo, luccia bella, luccia pura in traccia. Apri. Tarda è la notte. Cantata ancor manca la diva e strimpellan gavotte, tu attenderai la tosca in sull'entrata, le dirai che io l'aspetto finita la cantata. O meglio, le darai questo biglietto e la verrà. Thank you. fatelo tacere.

ancora vuole un salvacondotto onde fuggire dallo stato con a lui partir dunque vuole te sì per sempre sia ben via il voler vostro Oh, Thank you. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 Thank you. 神不一定长发披肩，也可以潇洒干练。 真正的女神不一定全身名牌，也可以一身戎装。 真正的女神不一定来自秀场， 好， 也可以走进军营。